Allora, intanto ti chiedo se ti puoi presentare. Io sono Sofia Ciuffoletti, lavoro all'Università di Firenze al Dipartimento di Scienze Giuridiche all'interno di un centro interuniversitario che si chiama Altro Diritto e sono la direttrice anche dell'associazione Altro Diritto Onlus, che è un centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità e governo delle migrazioni. Bene. Ti posso chiedere intanto un commento generale sulla situazione attuale, anche diciamo dopo queste rivolte? Le considerazioni sono varie, ma una principale è legata alla tutela del diritto alla salute tra fuori e dentro. Quindi noi siamo tutti giustamente molto preoccupati e ascoltiamo vari tipi di informazione, ci possiamo informare tra l'altro in vario modo, ma abbiamo anche tutta una serie di strumenti che sono attivabili di informazione e una serie di tutele che sono approntate per la popolazione. Ecco, dobbiamo immaginare che questi stessi strumenti non ci sono e soprattutto le stesse tutele non ci sono all'interno di un contesto chiuso come quello di un'istituzione totale detentiva, di un carcere. Ossia, dal 2008 in poi, a dire il vero, esiste in carcere la sanità, il sistema sanitario ordinario. Cioè, bisogna pensare, ricordarci, questa guarda è una cosa insomma, un po' strana e forse oggi assurda, ma fino al 2008 esisteva una sanità speciale. Una sanità penitenziaria che era retta, gestita e di competenza del Ministero della Giustizia. Quindi tu avevi medici speciali e questo ovviamente ha un risvolto importantissimo sul piano sociale, perché vuoi sul piano sociale non soltanto, anche giuridico, perché vuol dire per esempio che c'è una sanità che è in qualche modo al servizio del Ministero della Giustizia, che quindi ha un'impronta securitaria più forte. Per esempio, molto semplicemente, se arriva una persona che ha un occhio nero e ti dice sono caduto dalle scale, tu ci credi come medico alle dipendenze di un Ministero della Giustizia e non stai troppo a discutere. Se tu sei un medico dipendente dal Ministero della Sanità e appunto tuteli la salute delle persone al di là, tra dentro e fuori, appunto che tu sia dentro un carcere o fuori, forse ti interessa sapere se quel occhio nero, come se ti arriva una persona in pronto soccorso con un occhio nero, te l'ha fatto qualcuno e che quindi se quindi c'è un reato, visto che hai un obbligo di referto e devi indagare anche se quell'occhio nero magari è compatibile con una caduta per le scale o te l'ha fatto un agente di polizia penitenziaria, un tuo concellino e via dicendo. Quindi queste sono le specifiche. Ora, sul piano nostro, sul piano di un'emergenza sanitaria come quella del Covid-19, è ancora più rilevante il fatto che ci sia e sia tutelato il principio di equivalenza delle cure tra dentro e fuori, il che vuol dire che le cure, e quindi la sanità, è la stessa, è quella generale e ordinaria, dentro e fuori. Ma questo potrebbe portare a una considerazione di uguaglianza formale, no? Siamo tutti uguali, quello che vale per il fuori vale per il dentro. Il problema invece è che osservando empiricamente la realtà carceraria bisogna semplicemente affrontare e immaginare il problema per cui all'interno del carcere, cioè il luogo stesso del carcere per la sua struttura, per la sua struttura anche semplicemente architettonica, è un luogo che necessita di un approntamento diverso, cioè preciso e legato alle esigenze della detenzione della struttura carceraria. Ossia, tu devi immaginare che se dentro il carcere tu hai una situazione sanitaria in media sempre peggiore di quella che si ha all'esterno, per una serie di considerazioni, c'è maggiore rischio di contagio, la situazione sanitaria sul piano igienico, molto semplice, basilare, è disastrosa, come dimostra le condanne che abbiamo ricevuto da parte dell'Europa, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e che purtroppo non si sono risolte, le condizioni che hanno portato a quelle condanne non si sono risolte. O il semplice fatto, fai questa considerazione banale, oggi la fa su Repubblica Manconi, Luigi Manconi, i centimetri del carcere. Allora, noi chiediamo La Corte Europea dei diritti dell'uomo chiede che ogni detenuto abbia almeno 3 metri quadri minimi proprio di spazio vitale all'interno di una cella. Oggi all'interno delle celle in Italia questa misura minima è raramente garantita, ma anche fosse garantita una misura di 3 metri quadri, con le problematiche del coronavirus, quindi col problema del non soltanto il metro, ma adesso addirittura 2, 3 e qualcuno dice anche 4, ti puoi ben immaginare come vivere in una cella con altre 2 persone che dormono praticamente addosso a te e che vivono, mangiano, fanno pipì, si lavano nello stesso minuscolo spazio di vita, per un numero considerevole di ore porti al rischio di un rischio di contagio molto maggiore di quello che hai all'interno della società dei liberi, tra virgolette. Questi sono i problemi, quindi sono problemi di centimetri, sono problemi di igiene di base, di approvvigionamento di presidi sanitari, in carcere la necessità di mascherine, di guanti, ma soprattutto di amuchina, insomma di agenti disinfettanti è altissima. E al momento questo è uno degli elementi più problematici, cioè non ci sono mascherine, te lo dico perché appunto ho parlato, noi siamo anche garanti del carcere di San Gimignano, quindi ho parlato con le varie strutture sanitarie all'interno, insomma, della Toscana, questo è un problema ricorrente e i dirigenti sanitari stanno richiedendo con forza l'approvvigionamento di questi strumenti basilari, poter disinfettare. La cella è un elemento fondamentale in un momento di questo genere ed è purtroppo impossibile perché manca la mochina perché gli infermieri si lavino le mani o lavino gli strumenti che poi dopo passano da un detenuto all'altro. E ad oggi quali sono le misure effettivamente messe in atto, diciamo, per tutelare i detenuti e se sono nazionali o discrezionali, diciamo, per carcere e carcere? Ci sono delle misure che sono state indicate da un piano appunto ministeriale, dal DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e quindi Ministero della Giustizia, e che sono misure che vedono da una parte appunto l'aumento di questi presidi, però appunto c'è una discrasia, attenzione, tra quello che viene indicato e quello che può essere effettivamente approntato. Quindi le misure nazionali sono quelle di prevedere un reparto di triage. Quindi normalmente organizzato attraverso tensostrutture, sono costruite queste tensostrutture, in questi giorni le stanno approntando quasi tutti gli istituti, o meglio, quelli della Toscana che io sto monitorando, le stanno approntando. Ovviamente il problema grosso è anche la tempistica, le stanno approntando adesso. Forse questa questione doveva essere affrontata con maggiore capacità di prevenzione. 2 settimane fa, 3 settimane fa, invece sono adesso che vengono approntate queste strutture, penso strutture nelle quali le persone, teoricamente tutte le persone che transitano all'interno del carcere, che non è che è una comunità chiusa sotto tanti profili, ma è una comunità in realtà in cui lavorano altrettante persone più o meno di quelle che sono recluse, tra agenti di polizia penitenziaria, appunto area sanitaria, area educativa, quindi educatori e operatori esterni, quindi tutti gli operatori del volontariato penitenziario, gli operatori giuridici, gli avvocati e via dicendo. Quindi c'è una osmosi, c'è una permeabilità necessaria tra il dentro e fuori che stanno cercando di gestire attraverso appunto queste tensostrutture o questi comunque elementi strutturali in cui fanno il triage, prendendo la temperatura e via dicendo, facendo le domande di rito che ormai servono a pochissimo perché la zona rossa non, il concetto di zona rossa è stato esteso a tutta l'Italia, quindi le domande che si facevano prima erano, che per qualche giorno sono fatte, ma ora pare si continuano a fare, erano tipo viene da Castel Pusterlengo, ha visto qualcuno delle zone rosse, è ovvio che ora questo ha meno senso. E poi appunto queste sono le domande che vengono fatte, sono domande di rito che vengono fatte e si gestisce in questo modo la permeabilità che ti dicevo tra dentro e fuori. E poi ci sono delle misure, e poi dovrebbero essere garantiti i presidi che ti dicevo, quindi la soluzione alcolica, tra virgolette, insomma, la mucchina, quella gel, che dovrebbe essere a disposizione, ma che come ti dicevo non lo è, purtroppo, nella maggior parte dei casi e delle situazioni che io ho visitato. E poi ci sono delle misure giuridiche, quindi si dice, delle misure giuridiche, purtroppo, secondo me, lì sì. Mal congeniate, ma soprattutto, quindi un po' contrastanti, ma soprattutto mal comunicate. C'è un problema grosso di comunicazione da una parte di questi strumenti che ora ti do giuridici, ma dall'altra anche, questo è il più grosso dei problemi secondo me, della dimensione di tutela sanitaria. Cioè, se noi abbiamo il principio di equivalenza delle cure in testa e se noi però ci rendiamo conto che il carcere è un elemento all'interno delle nostre società che necessita di una maggiore attenzione, dovremmo immaginare di andare a parlare e non a un assembramento di persone, ma in qualche modo individualmente o comunque attraverso degli strumenti che non permettano il contagio, andare a parlare e raccontare quello che sta succedendo. Prendersi la responsabilità a livello sanitario, oltre che di direzione e via dicendo, ma questo probabilmente sta accadendo, di andare a raccontare quali sono gli strumenti di tutela della salute che vengono approntati in carcere. Proprio per le specifiche che ti dicevo prima, di problematicità estremamente diffuse di una popolazione, quella penitenziaria, che è normalmente maggiormente esposta a qualsiasi tipo di contagio, proprio perché è una popolazione più malata. Cioè, in carcere ci sono persone più malate, normalmente c'è un tasso di HIV, epatite B, C molto più alto rispetto a quello della popolazione esterna. Anche il semplice fatto, considera che si vive all'interno, chiusi di fatto, all'interno di celle, con un periodo di passeggi e d'aria molto limitato. Il nuovo decreto dice, appunto, la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 parla di 4 ore che devono essere garantite, ma 4 ore su 24 ovviamente sono minime, quindi una popolazione che vede meno l'aria, il sole, che quindi ha meno resistenza, è meno tutelata, è meno forte, cioè gli organismi vitali sono meno forti quando passano un periodo di tempo all'interno del carcere, sotto tantissimi profili, questo è vero, quello dell'alimentazione. Poi è vero anche una cosa importante, noi in carcere gestiamo e facciamo welfare purtroppo, e quindi molte persone che non hanno mai visto un sanitario lo vedono per la prima volta in carcere, quindi nel paradosso penitenziario in cui si fa welfare sociale attraverso il carcere c'è anche questo da dire, ma al di là di questo è vero che la popolazione penitenziaria è molto più malata della popolazione ordinaria all'esterno. E soprattutto lo notavo, guarda, sono statistiche che sono andata a vedere per un'intervista che mi hanno fatto sul caso di Vittorio Cecchigori, che è una persona appunto ultra settantenne. Io nella mia testa avevo ricordi di un numero di ultra settantenni molto basso nelle carceri italiane, proprio perché c'è una misura apposita della detenzione domiciliare, appunto del 47 ter,01 per gli ultra settantenni. Sono andato a vedere invece statisticamente il numero degli ultra settantenni è molto cresciuto all'interno delle nostre carceri, siamo quasi a 900 mille detenuti ultra settantenni, e questo visto che per il coronavirus ha un grosso impatto, il fattore appunto anagrafico dell'età, te lo segnalo e credo che sia importante ricordarcela questa cosa perché sembra appunto, molto spesso abbiamo l'idea che non ci siano persone anziane in carcere, in realtà ce ne sono per l'appunto, e questo quindi su tutta la questione, in qualche modo secondo me, grava questo enorme deficit comunicativo. Gli strumenti giuridici dettati per tutta il territorio nazionale sono questi, cioè si dice da una parte ai magistrati e alla magistratura di sorveglianza, che ovviamente con la discrezionalità del caso per caso, di essere, diciamo così, più proni a concedere misure alternative quali la detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare è una misura alternativa sì al carcere, ma non alla detenzione, cioè tu stai in casa in qualche modo in isolamento, potremmo dire in quarantena, cioè stai in carcere e stai in detenzione in casa invece che stare all'esterno. Ora, questa misura, che è la misura più contenitiva ovviamente tra le misure alternative che abbiamo in Italia, è ovviamente una misura che è possibile, a cui è possibile accedere per una serie più limitata di persone. Al di là dell'ostatività del 4 bis, che è un argomento di cui parliamo magari un'altra volta, ma che c'è anche per la misura alternativa di detenzione domiciliare, il problema è quello di averlo un domicilio dove andare. E questo per voi immagino che sia un elemento di grande rilevanza e molto importante ed è un problema reale. Oltre a questo, quindi ad essere più larghi nel concedere appunto la detenzione domiciliare, si dice, e questo lo vedremo, valuteremo l'effetto di questo invito, non può essere un'imposizione automatica, visto che esiste una discrezionalità giuridica, è bene che ancora esista, dall'altro lato però si dice attenzione, sì, date, concedete misure alternative, insomma, la detenzione domiciliare, dall'altra però si dice sospendete i permessi e il lavoro all'esterno, la semilibertà. Questo è un altro argomento molto problematico. Sospendere i permessi, sospendere vuol dire impedire in qualche modo quell'elemento di normalizzazione, in qualche modo di reinserimento che è necessario in carcere, lo si può fare, ma va comunicato in maniera, ripeto, migliore. E poi, altra questione molto problematica, è in maniera automatica e assoluta escludere la possibilità di colloqui con l'esterno, con i propri familiari. Anche su questo punto, seppure è una misura di esigenza dettata da un'esigenza sanitaria e quindi assolutamente, insomma, possibile, pensabile, va approntata immaginando subito correttivi che sono per l'appunto la predisposizione di colloqui Skype e la possibilità per i detenuti di fare le detenute di fare più chiamate rispetto alle ordinarie, quindi di fare le cosiddette, insomma, chiamate straordinarie. Questo in qualche carcere è stato fatto, in altri c'è maggiore resistenza e soprattutto ci sono questioni tecniche, secondo me, molto problematiche da risolvere sulla possibilità di avere una rete, una connessione abbastanza potente per far fare a tutte, che ne so, per esempio, gli 800 detenuti che stanno a Sollicciano, una chiamata, un colloquio, insomma, una chiamata Skype con i propri parenti, che poi devono essere in grado di fare chiamate Skype, quindi devono avere un collegamento internet e anche per quello, diciamo così, non, e anche quello direi che non è scontato. Queste sono le misure, diciamo così, genericamente individuate per tutto il territorio nazionale. Il problema è, come dicevo prima, comunicativo da una parte e sanitario dall'altra. E, si è parlato, diciamo, dagli ambienti anche un po' militanti di sinistra, è venuto fuori e si parla di amnistia a gran voce. Posso chiederti che ne pensi? L'amnistia è uno strumento, l'amnistia, l'indulto sono strumenti su cui abbiamo avuto già modo di confrontarci, parlo proprio come altro diritto, il famoso indulto, l'indultino, insomma, o l'indulto del 2006, sono strumenti che in realtà non servono a risolvere, cioè non sono in qualche modo strumenti che permettono una reale risoluzione, ma anche dico di medio tempore, perché sono misure che in realtà non incidono minimamente sulla recidiva e fanno sì che la persona che esce oggi rientri potenzialmente in termini molto brevi, in termini che probabilmente sono talmente brevi da non portare una reale efficacia rispetto all'emergenza, perché noi non abbiamo ancora la visione prospettica rispetto a quando raggiungeremo il picco, si scenderà e quindi a quando questa emergenza potrà rientrare, tra virgolette. Quindi io non sono molto sicura che un'amnistia sia una misura che al momento risolva la questione rispetto, ripeto, al problema coronavirus. Detto questo, chiaro è che bisogna immaginare, una serie di misure che potrebbero essere quelle di far uscire le persone che sono agli ultimi mesi, di fine pena, che hanno gli ultimi mesi di fine pena. Si possono immaginare una serie di strumenti. Non so quanto un'amnistia, lo ripeto, per il problema che dicevo prima, sia utile e quindi la si propone ed è chiaro che la si proponga perché c'è un elemento, potremmo dire contrattualmente molto, molto importante. Se lo Stato che appunto porta avanti una pretesa penale, no? Penale e penitenziaria, se lo Stato non è più in grado di garantire condizioni minime di vita all'interno del carcere, effettivamente viene meno quell'accordo, tra virgolette, contrattuale che la persona detenuta in qualche modo contrae in questa sorta di responsabilità da contatto sociale, possiamo dire, quando entra in carcere, per cui dice, insomma, io sono qui, ma non è che poi ne esco, appunto, morto o con una condizione, cioè devo più o meno essere tutelato soprattutto nei miei diritti legati appunto alla salute. Ecco, quando questo equilibrio molto, cioè che secondo me è già rotto dal principio, proprio per quello che dicevo prima, per il problema intrinseco a una struttura come quella penitenziaria nella tutela della salute, però quando si rompe in maniera così evidente, io capisco che ci sia questa esigenza e si chiami in qualche modo una misura così, secondo me, inutile e inefficace come l'amnistia. Quindi io capisco chi la richiama, nello stesso tempo, come ti dicevo, credo che non abbia, che purtroppo non serva nemmeno per risolvere questo momento. Certo è vero è che si deve immaginare una misura che permetta, ripeto, o alle persone che sono col fine pena molto breve di sfollare e sfoltire. Detto questo, poi i problemi del carcere risalgono a ben prima del coronavirus, ci saranno prima, c'erano prima, ci sono adesso e ci saranno dopo il coronavirus. Quindi noi dovremmo forse immaginare che affrontare il problema del carcere come unica modalità punitiva sia forse un'esigenza, non che ci chiede adesso il momento del coronavirus, ma un'esigenza per uno stato di diritto. Faccio un'ultima domanda. In questi giorni abbiamo visto, ora correggimi se sbaglio, ma circa quasi una trentina di carceri in tutta Italia che si sono rivoltate per le misure rispetto al coronavirus, anche se le informazioni non ci arrivano, diciamo, mai complete, mai sicure quando si parla di carceri. Da fuori, per essere megafono di queste rivendicazioni, che cosa ci potremmo dare a livello nazionale? Di richieste da esigere immediatamente per la tutela delle condizioni dei detenuti. Sì, innanzitutto credo che sia già importante l'idea, quello che tu hai detto adesso, no? Credo che sia importantissimo e anche molto emozionante che qualcuno dica da fuori, da libero, nella società dei liberi, vi voglio far megafono delle rivendicazioni da dentro, della società dei the Society of Captives, no? Nella società dei detenuti, dei reclusi. Questo è un primo sintomo di una sensibilità che abbiamo perso. E non ci ricordiamo più una cosa che secondo me è una cosa che invece si ricordavano forse di più qualche anno, qualche decennio fa. Noi abbiamo una Costituzione che molto spesso si dice è la Costituzione più bella del mondo, cosa che io tra l'altro non credo per niente, però è una bella, una Costituzione ce l'abbiamo. Questa Costituzione è stata scritta da persone che avevano l'esperienza del carcere, che erano state nelle carceri recluse, nelle carceri fasciste e che quindi avevano anche sul fronte dell'articolo 25, articolo 27,3, cioè sul fronte degli articoli della Costituzione che parlano dell'elemento punitivo e del carcere, principalmente 27,3, quindi devono tendere alla rieducazione del reo, non possono consistere in trattamenti disumani e degradanti, quindi tutti questi elementi importantissimi della nostra Costituzione sono scritti da persone che conoscevano la popolazione penitenziaria, che ne avevano condiviso la sorte per un certo periodo di tempo. E questa vicinanza, secondo me, è qualcosa che noi abbiamo completamente perso, in termini di solidarietà, in termini di pensiero, di riflessione tecnica e non solo, sul carcere e sulla pena. Non ce l'abbiamo più questo ricordo, credo sia molto grave che non ce l'abbiamo più, che non leggiamo più, che non ricordiamo più gli scritti delle persone che in carcere ci sono state. Quindi la prima cosa che penso è che sia molto bello quello che tu dici, cioè che voi volete farvi megafono di queste rivendicazioni. Le rivendicazioni poi in realtà sono tante, come ti dicevo, preesistono alla questione del coronavirus, sono legate alle condizioni detentive, sono legate a quello che è stato denunciato proprio all'interno di quel processo che ha portato poi alla condanna dell'Italia nella sentenza Torreggiani, prima su Levanovic e poi Torreggiani alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi potremmo dire la quotidianità della pena, la prossemica all'interno della struttura penitenziaria, cioè il semplice movimento quotidiano delle persone, la calca quotidiana delle persone le une sulle altre, la reclusione è questo, cioè è una sofferenza quotidiana nel portare avanti qualunque esigenza di vita, ed è esemplificata bene dall'idea della cella che è normalmente una cella di una dodicina di metri quadri in cui accampati tutti insieme con letti, in letti a castello, con un bagno minuscolo, con una sorta di doccia che non c'ha manco il box o una tenda, quindi si allaga tutto quando provi a farla, quando c'è la doccia in cella, e questo ovviamente non è sempre, dove cucini con un fornelletto di di risulta se ce l'hai, sei fortunato abbastanza ad avercelo, mangi e lavi i piatti nello stesso lavapiedi dove ti lavi le parti intime, o ti lavi le mani, o ti lavi, cioè il carcere è questo, e queste condizioni che sono state considerate disumane e degradanti, queste condizioni sono quelle da cui partire per considerare la rivendicazione dei diritti delle persone detenute. E come ti dicevo prima, sono questioni che vanno discusse, vanno affrontate prima che ci siano emergenze di questo genere. Le emergenze di questo genere non fanno altro che ricordare a noi sonnolenti rispetto a questi temi, che in realtà queste sono questioni di salute pubblica, sono questioni di tutela dei diritti di tutti. Non solo per ricordare, no, quella frase si dice sempre con i problemi di attribuzione che conosciamo, che lo stato di un governo, di una civiltà, si giudica dal metro appunto delle carceri o delle prigioni, non solo per questo, ma perché davvero. Davvero, noi dobbiamo immaginare un orizzonte di condivisione e solidarietà rispetto a uno strumento essenziale come quello appunto penale. Non possiamo ragionarci e rifletterci soltanto quando dei detenuti salgono sul tetto per urlare libertà, libertà o amnistia, indulto, o svaligiano le infermerie. Che poi svaligiare le infermerie in questi casi è ovvio che ha tanti risvolti, però è veramente simbolico e significativo anche del modo in cui noi facciamo contenimento e della mera possibilità della riduzione del rischio in carcere, la riduzione del rischio per esempio appunto in termini di sostanze. È pressoché impossibile farla e in carcere abbiamo non solo una popolazione più malata, ma una popolazione più dipendente da farmaci, perché probabilmente vivere in quelle condizioni lo puoi fare soltanto se sei parecchio, parecchio, pieno di farmaci e di psicofarmaci. Certo. Sofia, ti ringrazio moltissimo per il tempo, è stato veramente un Niente. piacere.